c'erano momenti che me ne mangiava la testa. Lo so, quelle sono proprio cosa però adesso mi sta scappando. Non mi ricordo. Volevo dire una cosa a proposito del coso, del baracchino, soltanto che adesso, dalla fretta di dirtela, mi è uscito di testa. E sicuramente, sempre ricollegandomi a quel rumore lì, ecco quanti volevo dire, ma in quelle pompe non si può fare un qualcosa, magari mettergli un qualcosina al posto di quella lenticchietta che stavi dicendo tu, sostituire quella e mettergli un qualcosa che possa assorbire questo, come si può chiamare questo disturbo, vai. Magari se attacco l'altro forse riesco a tirarlo fuori. ma qui lo sento bisbigliare. Pappagallo, ti sento solo io comunque, amico. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Allora non ti ascoltano, non lo so perché. Non ti ascoltano, capito? Niente, un attimino solo, riprendete voi che c'è un problema. Poi qua, insomma, noi con i